la vita e lui sol guida l'uomo, il valore, il senso delle parole sue son determinate dalla sostanza loro, non se l'uomo le accetta o le riconosce, anche se nessun uomo le riceve. Il loro valore e aiuto all'uomo sono smisurati, le parole di Dio sono verità immutabile, Dio dona la vita e lui solo guida l'uomo, a chi si ribella, smentisce o disprezza le sue parole, questa è la sola risposta di Dio. Lascia che tempo e fatti siano testimone suo, mostra che gli è la via, vita e verità, mostra che tutto giusto quel che ha detto lui è ciò che l'uomo dovrebbe avere, è ciò che l'uomo dovrebbe rispettare. Seguaci Dio darà la conoscenza, chi non sa accettare le sue parole e con le proprie azioni, e chi non trova scopo salvezza nelle parole sue è condannato dalle sue parole, è condannato dalle sue parole. Hanno perso la salvezza di Dio, la sua punizione li seguirà, le parole di Dio sono verità.